Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Edward, Phil, senti, sto andando di corsa. Volevo solo dirti... Con Morse va bene per stasera. Ah, d'accordo. Porta anche suo nipote. Forse vuol farne il suo delfino, non lo so. Ah, sì, è un giovanotto rampante. Si chiama David. Gioca a polo. Senti, l'ho detto e lo ripeto. Non mi piace che tu ci vada da solo. I just want your extra time and your... Io penso sarebbe meglio se tu ci andassi con una ragazza, capisci? Okay, buttarla sul sociale. Okay. Got to know talk baby, senti? Baby. Sì, sì, ti sento. If you wanna impress me, oh, una cameriera che canta. Got to be the learning mama. I know how to understand. Senti, io conosco tante ragazze carine. Se tu vuoi. No, tu no. I just want your extra time and your kiss. E poi io ne ho già una. If you wanna impress me. Tu concentrati per arrivare a capire le intenzioni di Morse. Io arrivo subito. I know how to undress me. Mm-hmm. Oh, baby. I want to be your fantasy. Well, maybe you could be mine. Mm-hmm. You just leave it all up to me. Non ti piace, Prince, vero? Molto più della mia vita. Il dialogo che avete appena ascoltato è tratto da una delle commedie romantiche più famose della storia del cinema, Pretty Woman. Julia Roberts è immersa in una vasca da bagno piena di schiuma mentre Richard Gere parla al telefono con il suo avvocato. Entrambi si trovano in una lussuosa suite all'ultimo piano del Beverly Wilshire Hotel, uno degli alberghi più prestigiosi del celeberrimo quartiere di Beverly Hills a Los Angeles. La Roberts ha alle orecchie un paio di auricolari e sta cantando a squarciagola una canzone che Richard Gere invece sembra non apprezzare troppo. Il pezzo si intitola Kiss ed è uno dei maggiori successi di una fulgida, eclettica star del pop da oltre 100 milioni di dischi. Un pezzo contagioso, vero? Un gustoso miscuglio di funk, pop, chitarre e ammiccamenti perfettamente in linea con lo stile del suo poliedrico compositore. Poliedrico già a partire dal suo nome. Nel corso degli anni questo vulcanico artista si è via via rivelato o celato al suo pubblico, adottando di continuo pseudonimi differenti. Jamie Starr, Joey Coco, Paisley Park, Christopher, Alexander Nevermind e persino un acronimo, TAFKAP. Serie di lettere che stanno per The Artist Formerly Known as Prince, l'artista un tempo conosciuto come Prince. Ed è proprio con questo nome, Prince, che tutti noi siamo abituati a riconoscerlo, a dispetto della sua straordinaria abilità di nascondersi. Prince, del resto, è l'unico fra i suoi tanti appellativi a non essere frutto di fantasia. Si tratta semplicemente del nome con cui è registrato all'anagrafe. Un nome piuttosto inusuale, un nome che porta già con sé i semi del destino principesco che lo aspetta. Uno dei meccanismi più normali, persino più scontati, dell'essere genitori è quello di riversare sui figli le proprie ansie, le attese, le promesse e addirittura i propri sogni infranti o incompiuti, nella speranza che la prole possa portare a compimento quello che era rimasto in sospeso. È proprio questo che fa John L. Nelson, il papà di Prince. John era un bravo compositore e pianista, noto col nome d'arte di Prince Rogers, ed è proprio così che decide di chiamare suo figlio Prince Rogers Nelson. Spera davvero che sia di buon auspicio. Spera che quel nome porti più fortuna al suo primogenito di quanta ne aveva portata a lui, che non era mai riuscito a sfondare per davvero. È ancora presto per saperlo, ma quel 1958, l'anno in cui nasce Prince, si rivelerà un anno benedetto per il mondo della musica. Se Prince viene al mondo in giugno, in agosto sarà il turno di Madonna e di Michael Jackson. L'estate del 1958, insomma, assiste ai primi vagiti delle future divinità del pop. Perché mai Prince Rogers Sr. non era riuscito a sfondare come musicista? Forse è tutta colpa di Minneapolis, città che non vanta certo una lunga tradizione in fatto di musica nera. Non è che non ci sia musica nell'aria a Minneapolis, sia chiaro. Nella capitale dello stato del Minnesota è nato artisticamente un tale che di nome fa niente meno che Bob Dylan. Però in effetti la black music non si è mai fatta tanto sentire da quelle parti. Solo il 5% della popolazione cittadina infatti è di colore. Eppure Prince ama la sua città natale e non la lascerebbe per niente al mondo. Fin da ragazzino sente che la sua passione per le calde note del funk, del soul e del rock and roll non è affatto incompatibile con il gelido clima della zona dei Grandi Laghi. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. And all good things they say never last. No, non me ne andrò mai da Minneapolis. Sai perché? Perché fa talmente freddo che la gente cattiva si scoraggia e non ci viene neanche. Anche là sulle rive gelate del Mississippi i giovani ascoltano musica. E negli anni 70 in particolare c'è solo una stazione radio su cui sintonizzarsi, la KQRS. Qui girano in continuazione i dischi di Carlos Santana, dei Cream, di Jimi Hendrix e di Sly and the Family Stone, gruppo fondamentale per la formazione musicale del giovane Prince. Prince è un giovane stravagante, decisamente sopra le righe rispetto ai suoi coetanei. Alla passione per la musica unisce quella per gli outfit particolari e ricercati, sempre fuori dalla norma e lontani dalle abitudini della gioventù un po' grigia di Minneapolis. Se la natura l'ha fornito di una tipica scultorea a capigliatura afro, lui non fa altro che aggiungerci un bel paio di pantaloni a zampa, una camicia a fantasia e un berretto alla Sly Stone. Completano il tutto un paio di eccessivi, svettanti zatteroni. A dispetto di un look tanto sfacciato, Prince parla poco. È decisamente timido e ama stare sulle sue. Alle prime festicciole da adolescente se ne sta un po' in disparte, non fuma, non beve, non balla. Però il suo abbigliamento grida già una voglia di esibirsi, di ribadire la propria identità, anche se questa non è ancora del tutto formata. E poi c'è la musica. Lei più di ogni altra cosa è il veicolo dell'espressione della sua giovane interiorità. Quando suona, Prince appare completamente trasformato agli occhi dei suoi giovani compagni di studio. Scatenato, carismatico, praticamente irriconoscibile. Col suo amico Andre si chiude nello scantinato di casa e suona fino a quando non gli si intorpidiscono le dita. Lui e Andre non ci mettono molto a entrare a far parte di una band, i Grand Central, nati tra i banchi della Minneapolis Central High School. Suonano a qualche festa sia scolastica che privata e Prince dimostra a tutti quanto è abile a far scorrere le dita sui tasti del piano o a usarle per pizzicare le corde di una chitarra. Fin da giovanissimo dimostra di avere la vocazione del vero polistrumentista, come ricorda il musicista Pepe Willie. I knew he played keyboards. Sapevo che suonava sia la tastiera che la chitarra, ma di certo non mi aspettavo che prendesse il basso e iniziasse a suonare anche quello. Basso e batteria, oltre a chitarra e tastiere. E anche con la voce, a dire il vero, Prince non se la cava affatto male. All'inizio i Grand Central fanno solo cover di pezzi famosi, ma poi, lentamente, iniziano anche a suonare brani nuovi, composizioni originali che Prince si inventa di sana pianta. The Grand Central cambiano il loro nome nel più spumeggiante champagne. Forse sarà il nome nuovo che gli porta fortuna, chi lo sa. Sta di fatto che Prince e soci si fanno notare da Pepe Willie, musicista che ha già una certa esperienza alle spalle. E io in quel periodo ero proprio in studio ad incidere un disco con la mia band, i 94 East. Quindi niente, gli ho detto, ehi Prince, dovresti proprio venire a fare un salto in studio. Sei mai stato in uno studio di registrazione? E lui mi disse che no, non c'era mai stato. Abbiamo inciso 5 canzoni in 4 ore, ma ti rendi conto? Lui era già un professionista nato. Ed era così giovane. Non potevo crederci, giuro. L'esperienza in studio con i 94 East insegna a Prince come muoversi all'interno di uno studio d'incisione. Impara tanto in fretta che ad appena 17 anni decide di fare il grande salto. Suonare in una band gli piace, ma lui si sente già un artista completo. Scrive già da qualche tempo le proprie canzoni, non vede l'ora di poterle far diventare realtà. Quello che gli manca però è un produttore discografico che creda in lui e nelle sue potenzialità. Il destino, per fortuna, glielo fa incontrare. Con tutti i posti che c'erano, un tale di nome Chris Moon è venuto fino dall'Inghilterra per aprire uno studio di registrazione proprio a Minneapolis. Qui incide per lo più spot radiofonici, oltre naturalmente alle consuete demo tape degli artisti locali di Belle Speranze. A Moon serve un pianista per registrare un segmento di una pubblicità. Gli capita sotto mano una cassetta. Ci sono sopra alcuni pezzi di un gruppo, si chiamano Champagne. Quel tizio al piano è bravo, accidenti. Forse è proprio quello che fa al caso suo. Decide di chiamarlo. Prince naturalmente accetta il lavoro, eseguendo con maestria la parte al piano che gli è stata richiesta, e si permette, già che c'è, di consigliare una linea di basso per quel pezzo. Fantastico, dice Moon, ma chi la suona? Io, risponde sicuro Prince. Moon è senza parole. Questo è molto più di quello che si aspettava. Prince lascia di stucco Chris Moon, incidendo anche le parti di chitarra, di batteria e, non contento, pure le tracce vocali. Come compenso, Prince non vuole soldi, come sarebbe normale e legittimo, ma fa una richiesta di tipo diverso. Chiede a Moon di poter usare il suo studio per registrare le proprie tracce. Qualche settimana dopo, con alcune demo in tasca, i due decidono di partire alla volta di New York per andare a caccia di contatti con le case discografiche. Gli esiti della loro missione in un primo momento sono tutt'altro che soddisfacenti, e mentre Prince continua la sua perlustrazione della grande mela, Moon fa ritorno a Minneapolis. Gli è venuta un'idea brillante e non vuole lasciare nulla di intentato. Conosce bene il valore nascosto dentro a quello scricciolo col nome di un principe, un ragazzino all'apparenza fragile che trasfigura non appena prende in mano uno strumento musicale. Un vulcano di idee condensate in 157 centimetri di altezza. Ah beh, io posso scrivere una canzone a proposito di qualunque cosa, su una conversazione, su un'idea, su un sogno, su tutto. Chris Moon sa benissimo che il potenziale di Prince è praticamente illimitato e sa chi vuole convincere a credere in quel ragazzo. Una volta a Minneapolis, Moon va dritto dal produttore e manager Owen Husney, che, come colto da una rivelazione, molla ogni progetto cui stava lavorando e decide di perseguire la via di Prince. Gli compra l'attrezzatura, gli consiglia di concentrarsi sui ritornelli, gli paga persino uno stipendio settimanale e pianifica nei dettagli la sua scalata. I brani già pronti, reincisi con più cura e accorgimenti, vengono confezionati all'interno di uno speciale press kit fatto apposta per impressionare i discografici. Su uno sfondo nero c'è l'immagine vagamente inquietante del musicista con i suoi occhi magnetici, il tutto sormontato dalla scritta Prince. L'attenzione dei discografici viene subito catturata. A&M, Columbia e Warner Brothers si dimostrano molto interessate. È la Warner, infine, a spuntarla. E così, nel 1978, vede la luce For You, il debutto discografico di Prince. Come recita una scritta all'interno del booklet, l'intero album è prodotto, arrangiato, composto e suonato da Prince, ad eccezione della traccia Soft and Wet, scritta insieme a Chris Moon. Del resto, è lui il suo primo magnifico destino, nonché artefice di fatto del suo esordio artistico. Nell'aprile 1978 Prince arriva nei negozi di dischi sotto l'egida della Warner Brothers con il suo primo album. Le richieste del cantante nei confronti della casa discografica prevedono la registrazione di almeno 3 LP. Loro, naturalmente, accettano di buon grado. Sanno che in quel minuscolo giovanotto si nascondono un'energia e una furia compositiva senza eguali. Mentre Prince, negli studi californiani che la Warner ha affittato apposta per farlo lavorare, si diverte solitario tra gli strumenti e i mixer come fosse un bambino che scarta i regali il giorno di Natale, una serie di produttori e discografici d'ogni sorta si aggirano con fare furtivo nei corridoi. vogliono vedere e soprattutto sentire quel prodigio con i loro occhi e le loro orecchie. Tutti si trovano concordi nell'affermare che Prince, con quel talento multiforme, può fare ciò che vuole. Beh, sei sempre in tempo per rinegoziare un contratto discografico, no? Basta che vai lì e gli dici: senti, ho pensato che stavolta farò un disco country western. Che ne dici? E sono in pochi, in effetti, a credere che Prince, se volesse, non sarebbe capacissimo di farlo. Il country, però, a dire il vero, non è proprio il suo genere d'elezione. Il funk e l'R&B, il rock and roll e un po' di disco music sono certamente le sonorità che lo influenzano di più e che sono presenti in massima parte nel suo album d'esordio. Un lavoro che però non manca di lanciarsi in gustose sperimentazioni, come avviene nella sorprendente traccia d'inizio, tutta cantata a cappella, ovvero senza l'ausilio di strumenti musicali. Anche la voce di Prince come strumento non è affatto male. For You, tutto sommato, è un buon disco d'esordio, ma è un lavoro ancora piuttosto immaturo che non lascia molte tracce nelle classifiche di vendita. Se vuole davvero sfondare, Prince deve iniziare a pensare di esibirsi dal vivo per mettere in bella mostra tutto il suo talento. Tanto più che la Warner Brothers gli ha già organizzato un calendario promozionale davvero serrato. Prince non può certo pensare di suonare dal vivo da solo, ovviamente. Se in studio è abituato a curare personalmente ciascuno strumento, dal vivo avrà bisogno di una band e questa nuova dimensione live, di fatto, deve essere costruita tutta da zero. È così che il 5 gennaio 1979, al Capri Theater di Minneapolis, Prince si presenta al pubblico affiancato da Bobby Z alla batteria, Des Dickerson alla seconda chitarra ed Andrew Simon, suo vecchio amico fin dai tempi degli Champagne, al basso. Alle tastiere, Gail Chapman e un certo Matt Fink, detto Dr. Fink, che diventerà uno dei pilastri della nuova band di Prince. Ecco un nuovo, magnifico destino che si affaccia su un futuro artistico che sarà, senza ombra di dubbio, fulgido. Misi su questa band che non era solo multiraziale, ma era anche composta da uomini e donne. Era un po' come se i Fleetwood Mac si fossero fusi con gli Sly and the Family Stone. Dr. Fink ne è sicuro. Prince ne farà molta di strada. E la band che lo accompagna non sarà una normale band di funk e R&B. Sarà molto più di questo. Sarà un super gruppo di talentuosi musicisti capaci di spaziare tra generi musicali e stili differenti. Sarà una vera e propria rivoluzione. Lo sarà a partire dal suo nome, The Revolution. Quella fredda sera di gennaio, nel bel mezzo di un gelido inverno del Minnesota, al Capri Theater di Minneapolis, le calde, roventi note di Prince and the Revolution stanno scrivendo un pezzo di storia della musica. I magnifici destini. Prince e la sua band, The Revolution, hanno esordito nel gennaio 1979 al Capri Theater di Minneapolis, città natale di Prince. Sono un ensemble di ottimi musicisti e folli sperimentatori, un coacervo di bianchi e neri, uomini e donne, un gruppo folto ed eterogeneo di talenti che esaltano la già complessa figura del loro leader. Il secondo, omonimo album di Prince, ha lo stesso sound funk e R&B dei suoi esordi, ma dimostra di essere un lavoro più maturo grazie soprattutto alla presenza della nuova band e al lavoro che Prince fa insieme agli altri musicisti. Esibirsi dal vivo con loro diventa una sfida esaltante, anche se all'inizio, a dirla tutta, per un ragazzo di natura schiva come lui, non è proprio una passeggiata. Negli studi televisivi della ABC si aggira una specie di folletto con pantacollant dorati e camicia cangiante sui toni del rosa rigorosamente aperta sul petto. Si è anche stirato la sua ribelle capigliatura afro per l'occasione. E perché mai questo folletto, che in verità altri non è che Prince, si trova in uno studio televisivo? Perché il singolo tratto dal suo secondo album, un pezzo dal titolo I Wanna Be Your Lover, è balzato in testa alla R&B chart, oltre che al numero 10 della classifica dei dischi pop più venduti. Il piccolo schermo sa fiutare il successo anche da lontano e non può fare a meno di invitare il giovane Prince ad apparire nelle case di milioni di americani. American Bandstand in quegli anni è in assoluto lo show musicale più popolare che ci sia. Ma per Prince, in quell'occasione, le cose non filano lisce. Ce ne parla un amico di vecchia data, Pepe Willy. Il presentatore è uscito e gli fa: «E io ho sentito che suoni molti strumenti». E poi ha aspettato che lui rispondesse. E Prince a quel punto ha mugugnato qualcosa. E allora il presentatore ha iniziato a parlare per rompere il ghiaccio e lui rispondeva a monosillabi. È stata una cosa che non è riuscito a controllare e si è spaventato a morte. È stata quella la volta in cui dopo mi disse che una cosa del genere non sarebbe successa mai più. La rivoluzione di Prince, che da ragazzino talentuoso ma timido vuole assurgere all'Olimpo della fama, passerà necessariamente attraverso l'aiuto e l'apporto di Dr. Fink e degli altri componenti della band The Revolution. Innanzitutto Prince vuole che ognuno di loro, oltre ad avere un ruolo preciso occupandosi di un determinato strumento musicale, si trovi una sorta di personaggio da interpretare. I loro show saranno grandiosi e in costume, come si conviene a una band che non vuole certo passare inosservata. Prince stesso inizia a vestirsi come una provocatoria icona del sesso, con abiti attillati e tacchi vertiginosi, rompendo tabù che nei primi anni Ottanta erano ancora giganteschi e intatti. La gente dice che porto i tacchi perché sono basso. Ma non ha capito niente. Io porto i tacchi perché i tacchi piacciono alle donne. A partire da Dirty Mind, terzo disco risalente al 1980, nel sound di Prince e dei suoi The Revolution, incominciano a emergere sempre più sonorità diverse da quelle tipicamente black, ascrivibili al funk e all'R&B. Del resto, la classica struttura della canzone pop ormai puzza di vecchio. La musica elettronica, la new wave e il punk, laggiù in Europa, stanno cambiando un sacco di cose. Prince non può certo restare con le mani in mano, progetta anche lui il suo personale salto di qualità, come ricorda Dr. Fink, fedele compagno di avventure musicali. Ora mischiava rock e new wave e c'erano dentro anche accenti punk nelle cose che facevamo. Si seguiva l'onda di quello che stava accadendo in giro, insomma. Basta con le smancerie, con gli archi e con i pantaloni a zampa d'elefante. Largo ai synth, alle stranezze, al crossover. Del resto la sua band è già un bizzarro ma perfetto miscuglio di elementi eterogenei, no? Il pubblico nero, eternamente infatuato del più classico R&B, forse non sarà d'accordo, storcerà il naso. Ma Prince sa che questa svolta sarà il suo lasciapassare per il successo. '99 è il disco della vera svolta per Prince. È già il suo quinto lavoro in studio e pensare che sono passati solo 3 anni dal suo esordio discografico. 5 dischi in 3 anni, mantenendo praticamente la media di 1 ogni 6 mesi. Un autore davvero vulcanico, incontenibile. Il singolo 1999 e quello successivo, Little Red Corvette, balzano in testa tutte le classifiche. L'album risulta il quinto più venduto sul suolo americano in tutto il corso del 1983, aiutato anche da un funambolico tour insieme agli inseparabili The Revolution. Prince, a colpi di singoli azzeccatissimi, si contende ormai le chart con il rivale Michael Jackson, il cui Thriller è uscito praticamente in contemporanea. È così che in un tiepido autunno dei primi anni Ottanta nasce l'acclamato Minneapolis Sound, la nuova cifra sonora e stilistica del panorama musicale. Questo Minneapolis Sound è un vero e proprio muro sonoro ossessivo, addirittura quasi tribale, eppure insieme sofisticato e studiatissimo. Prince non lascia niente, ma proprio niente, al caso. Voglio solo che la gente sappia che credo davvero in quello che faccio. 1999 fin qui è senza dubbio l'album più sperimentale di Prince. Le singole canzoni possiedono ciascuna una coda di almeno un paio di minuti che aumenta la sensazione di ascolto come vera e propria esperienza dei sensi. Se le cose in studio vanno alla grande, altrettanto succede sui palcoscenici in giro per gli Stati Uniti. Ed è proprio durante una serie di concerti che Prince presenta a sorpresa alcune nuove canzoni che andranno a comporre il suo 6° album. Nessuno ancora sospetta che si tratti di pezzi che entreranno nella storia. È una calda sera dell'agosto 1983. Un folto pubblico è radunato al First Avenue di Minneapolis, uno dei locali più famosi della città, per un concerto di beneficenza dove suonano anche Prince and the Revolution. Certo, il pubblico di Prince è abituato a non aspettarsi mai un concerto normale, ma di sicuro quella sera non si aspetta nemmeno di ritrovarsi ad applaudire una serie di pezzi inediti tra cui I Would Die For You, Baby, I'm a Star e soprattutto una certa Purple Rain. Le cose su quel palco funzionano talmente bene che Prince decide di usare le registrazioni per il suo nuovo progetto in studio. Gli sembra che la risposta del pubblico ai nuovi pezzi fosse decisamente positiva, addirittura entusiasta. Ma c'è di più. Durante il lungo tour in giro per gli States, il vulcanico musicista ha pensato più volte di realizzare qualcosa di diverso da un semplice album. Forse il mondo della musica è perfino troppo piccolo per le sue ambizioni, che potrebbero sconfinare addirittura sul grande schermo. L'idea di un musicista alle prese con una sceneggiatura cinematografica potrà sembrare strana, ma non lo è certo per uno come Prince. Purple Rain sarà un vero e proprio lungometraggio dal sapore autobiografico. Racconterà le vicende di Kid, alter ego dello stesso Prince. Sarà lui stesso, naturalmente, a recitare nella pellicola. Chi meglio di se stesso potrebbe raccontare trasfigurandole porzioni della sua stessa vita? Prince, in his first motion picture. Le riprese iniziano a Minneapolis nel novembre 1983 e sono affidate a un certo Albert Magnoli, regista sconosciuto che si trova alle prese con una produzione tutt'altro che milionaria. Alla colonna sonora, naturalmente, ci pensano Prince and the Revolution. E se il film non risulta essere un capolavoro della settima arte, ci pensa proprio la soundtrack a risistemare il bilancio non solo nei cuori del pubblico, ma anche in quelli della critica e persino dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. The winner is Prince for Purple Rain. Il premio Oscar del 1985 per la migliore colonna sonora va dritto a Prince e alla sua Purple Rain, che nella versione a 33 giri si issa in cima alle classifiche americane per 21 settimane consecutive. Solo Thriller di Michael Jackson aveva saputo fare meglio con 28. Ormai Prince ha conquistato l'America. L'Europa e il resto del mondo sono appena dietro l'angolo. Non c'è nemmeno un briciolo di funk in quel pezzo. Non c'è R&B, non c'è niente di tutto questo. È semplicemente un pezzo rock, una specie di inno al rock. Dr. Fink, storico tastierista dei The Revolution, non fa altro che confermarcelo. Purple Rain è l'inno al rock che regala a Prince non solo la fama e la vetta delle classifiche che aveva sempre cercato, ma persino un premio Oscar. Ma il successo, quello vero, non arriva mai senza qualche polemica. I bought the Purple Rain album for our 11-year-old. Ho comprato il disco di Purple Rain per nostra figlia di 11 anni. Non sapevo che Darling Nikki fosse su quel disco e mi sono resa conto che era decisamente inappropriato, sia per lei che per sua sorella. Insomma, c'era la descrizione di una ragazza che si masturbava sfogliando una rivista nella lobby di un albergo. Io non avevo nessuno strumento per sapere questa cosa prima di comprare il disco. Sapevo solo che Prince era il nuovo idolo delle ragazzine. Oh. Se i prodotti dell'industria cinematografica fin dalle sue origini sono censiti in base alla possibile età degli spettatori, lo stesso non avviene per i prodotti dell'industria discografica. Lo dimostra il caso di Tipper Gore, ex moglie di Al Gore, vicepresidente degli Stati Uniti nell'era Clinton. Tipper compra Purple Rain per le sue figlie e non immagina certo che Darling Nikki, uno dei brani del disco, contenga espliciti riferimenti sessuali. Ne riferisce davanti al Congresso, indignata. L'episodio spinge le autorità competenti a dar vita a un comitato, il Parents Music Research Center, che operi un controllo sui testi delle canzoni. È proprio attraverso l'attività di questo comitato che nasce il famoso logo Parental Advisory Explicit Lyrics, ovvero avviso per i genitori, contiene testi espliciti. Logo che viene impresso sulla copertina di ogni album che abbia testi ritenuti delicati per i minori. Iniziativa lodevole, ma avrebbe dovuto essere una forma di censura ed è diventata col tempo quasi un segno di riconoscimento e distinzione, una sorta di attrattiva per il pubblico. Il logo Explicit Lyrics avrebbe dovuto creare un ghetto per le pubblicazioni musicali e invece ha avuto l'effetto opposto. Le ha fatte diventare molto più appetibili. È il fascino del proibito. Darling Nikki, in compenso, anche grazie alla polemica che l'ha coinvolta, è diventato un pezzo cult. Ripreso e riarrangiato da artisti di ogni sorta, tra cui i Foo Fighters e recentissimamente la pop star Rihanna. A proposito di cover, forse non tutti sanno che Prince, oltre a sfornare continuamente dischi per sé, si dedica anche all'attività di compositore per altri artisti, spesso celandosi sotto vari pseudonimi e regalando in giro i propri pezzi. È il caso di un brano dal titolo Nothing Compares to You, scritto per il collettivo The Family, e poi portato al successo nel 1990 grazie a una cover cantata da una certa ragazza irlandese coi capelli rasati, arrabbiatissima, con Papa Giovanni Paolo II, tanto da strapparne pubblicamente una fotografia come estremo atto di protesta. Un bel caratterino questa Sinéad O'Connor. E dire che a vederla sembra solo una ragazzina fragile che soffre per amore. Ebbene sì, Nothing Compares to You della pallida irlandese Sinéad O'Connor è stata scritta proprio da Prince. Due stili quasi opposti, certamente due look diversissimi. Non l'avreste mai detto, eh? Dopotutto, uno dei più grandi pregi di Prince è quello di sapere stupire. L'inarrestabile verve creativa di Prince continua a produrre frutti acclamati dal pubblico e dalla critica, come Sign of the Times, che sul finire degli anni Ottanta riscrive le regole del pop, influenzando molti grandi artisti di generi diversissimi, dal rap all'elettronica. Un'energia incontenibile la sua, così incontenibile che le briglie di una casa discografica, per quanto sciolte, non riescono a porvi freno. È così che la Warner Brothers, che l'ha avuto sotto contratto per molti anni, gli concede di aprire una sua propria etichetta discografica, la Paisley Park Records. Nel suo personale orticello Prince potrà esercitare ancor meglio le sue storiche manie di perfezionismo. Ogni cosa, dai costumi dei live show agli arrangiamenti dei pezzi, fino all'arredamento dei bagni, è sotto il suo diretto controllo e si sottopone al suo insindacabile giudizio. Beh, non proprio tutto forse. Il 7 giugno 1993 è Prince stesso ad annunciare che Prince è morto e che da quel momento in poi verrà identificato con un simbolo grafico impronunciabile, per usare le sue stesse parole. Fin dal suo primo album nel 1978, Prince, o meglio l'artista un tempo conosciuto come Prince, ha avuto totale controllo sui suoi lavori. Ora però la Warner Brothers gli fa la guerra e vuole restringere il suo potere di controllo artistico. Forse le vendite dei dischi sono in calo, forse tutta l'industria discografica in generale inizia a sentire qualcosa che scricchiola sotto i suoi piedi. Fatto sta che Prince abbandona il proprio nome e si sa che quel nome per lui è proprio tutto. My name is very spiritual to me. Il mio nome ha un significato davvero spirituale per me. La battaglia con la Warner termina con la naturale scadenza del contratto che lega Prince alla casa discografica. Lui si riprende il proprio nome e la propria libertà di fare quello che gli pare. Torno a usare il mio nome al posto del simbolo con cui l'avevo sostituito, che poi era solo un modo per sfuggire a una serie di relazioni indesiderate. Da questo momento in poi torna a sperimentare forsennatamente. Dal gospel al jazz, con innumerevoli echi di ritorno al funk che tanto lo aveva influenzato alle origini. Da allora ha sfornato ben 34 dischi come solista, senza contare le varie collaborazioni ai pezzi firmati sotto mentite spoglie. Nel 2004 ha pubblicato un album, il suo 30esimo, dal titolo Musicology, musicologia, augurandosi che potesse servire agli ascoltatori per imparare qualcosa. Indiscutibilmente presuntuoso. Eppure a ben guardare, anzi a ben sentire, Prince ha giusto due o tre cose da insegnare in fatto di musica. Heard about the party now, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all.